Amici di Runtime, buonasera. Potevo starmene tranquillamente sotto le copertine calde a guardarmi Disney Plus, che tra l'altro oggi fa un cacchio di freddo. Invece ho scelto di stare qui a farvi compagnia. E con me ci saranno gli amici di una vita ormai, e li saluto in clamoroso ordine sparso. Marco Gualdi. Ciao, vi saluto, infatti che ce lo fa fare? Sono tante belle copertine con cui coprirci, fa freddino oggi, eh? Marco, tu sei collegato da dove geograficamente? Penso dalla Lapponia. Quindi dal centro Italia, insomma, più o meno, no? Dal centro Italia, esatto, che fa freddissimo. Ed è... Vabbè, io comunque sto andando a vedere se ci sono le castagne per il Natale, sai. È un po' Natale, non sentite lo spirito del Natale che arriva? Quasi. Leggermente più a settentrione abbiamo il mitico Alex Raccuglia. Ciao a tutti, ciao. Io non c'entro niente, ma dovevo esserci, altrimenti il mio filotto andava a farsi benedire. Beh, ormai abbiamo assodato che tu c'entri sempre proprio per il filotto, quindi insomma ci preoccupiamo se non ci sei. Esatto. E lui fa il disturbatore, come... Una volta avevamo il distruggitore, adesso abbiamo il disturbatore, ma non cioè, solo. Devo urlare perché... prendete preservativi? Cioè, esatto. Qualcosa del genere. Okay, assolutamente sì. Usate preservativi, così. Ma poi abbiamo da sud, ma anche da nord, ce lo spiega lui, lobster frontale. L'ho mischiato. Uè uè, pizza, mandolino, spaghetti, tarantella, lanciafiamme. Bravo così. La quota meridionale però non si esaurisce però... qui. Perché scusami Lobby se ti sono entrato a gamba tesa, ma con noi c'è anche Carmine Puccio Console. Ciao a tutti. Direttamente dalla nevosa provincia di Bari, perché signori oggi ha nevicato a Bari. Che voglio dire, le disgrazie non vengono mai sole. Grazie a Dio è durata poco, però. Però c'è una bella aria fresca che speriamo danneggi il virus in maniera importante. Prima però bisogna girare le persone, perché sai com'è. Sì, ovviamente. Qua i vecchi che cadono. No, ma guardate, c'è un lato positivo. Se fa il ghiaccio, i vecchi che vanno in giro magari cascano e la smettono di andare in giro. Guardiamo il lato positivo della questione. Aspetta, la devo razionalizzare, però penso che ci siamo. Ragazzi, sì, siccome sì, dovevamo mantenere le quote e adesso siamo veramente ben distribuiti sul territorio, c'è con noi anche Simone Gusella. È qui la festa, ciao. Oh madonna, c'è pure Gusella. Sì. Gusella, ma il link di questo episodio dove va? Dove sta? Scusate, dovremmo mica fare un po' di spam. Un pochino l'abbiamo fatto su Telegram, però lo trovi nelle chat anche tecniche. Ah, ok, va bene, così spammo un po' anch'io. Vai. E intanto Prato, salutiamo anche chi ci fa compagnia in chat. In questo momento vedo Davide Gatti, Gianluca Sansò e Lucio Plantone. Ciao ragazzi, bentrovati, siamo qui. E che facciamo di bello? Che facciamo? Perché questo titolo? Nessuno che lo vuole dire. Hai deciso tutto tu, no? Ho fatto tutto io, ho preso iniziativa. Siccome oggi parlavamo di cosa potessimo chiacchierare questa sera, a un certo punto parlavamo anche dell'orario in cui fare questa diretta, 18, 17, 30, 19. Qualcuno a un certo punto ha detto, ma io alle 19 devo cenare. Io ceno alle 19, infatti ceno pure io. Beh, ho capito, finché lo fa Gusella dal profondo nord mi sta anche bene, ma tu cacchio, Gualdi, adesso tu stai in casa di riposo. 18, 19 al massimo si mangia, cioè... Stai a fare, poi vai a dormire. Scusa, toglimi una curiosità. Se mangi alle 19, poi a che ora vai a dormire? Ah, verso le 9, 9 e mezza, non tardi. Vado a dormire, cosa fai? Allora, Marco, se è vero che il coronavirus è stato creato nei laboratori dell'INPS, lo hanno fatto pensando a te. Esatto. Cioè, tu potenzialmente per l'INPS sei un dito al culo. Infatti. Come possiamo rendere felice Marco? Non mandiamo un virus per il mondo, è cosa mia. Beh, in realtà è che lo dovrebbero fare un pochino più selettivo. Purtroppo lo spread di questo virus si è un po' allargato fuori controllo. Però vabbè, d'altra parte sono cose che capitano. E da chi vogliamo iniziare? Non esiste, sono cose finte, Europa malvagia. Sempre quella, sempre. Fermo restando che poi parleremo anche di altre cose, perché la ciccia questa giornata ce n'ha lasciata tanta in eredità, quindi oltre a leggere i numeri che a breve sicuramente usciranno, racconteremo un paio di cose che sono successe. Però intanto io volevo iniziare. Vedete voi chi viene alla lavagna interrogato volontario? Dai, vengo io. Carmine, Bravo, come funziona nel sud, quello, nel tacco dello stivale, l'orario di cena, di pranzo? Com'è la routine? No, io stavo leggendo gli orari di cena che avete sparato su Telegram. Io pensavo, cioè, casa mia, se ceniamo alle 6:30, alle 7, alle 9:30 ceniamo di nuovo. Veramente ceniamo. Cioè, è vero che noi in famiglia da un po' di tempo, da quando abbiamo due bambini, come diceva mia moglie, abbiamo cambiato un po' orari, perché comunque vogliono mangiare prima, andiamo a letto prima. In realtà sì, mi diceva mia moglie, già dalla prima, il secondo non ci ha scombussolato gli orari più di tanto. Però è anche vero che tradizionalmente a Bari non è che ti alzi da tavola prima delle 8:30, le 9, non è che inizi alle 7, inizi una mezz'ora, un'ora prima. Io ogni volta che leggo amici che stanno al nord che alle 5:30, alle 6 dicono vabbè, vado a preparare la cena, mi domando, ma lo fanno per andare a dormire affamati? Cioè, non riesco a trovare una spiegazione a questa cosa. Gusella, dici tu, visto che ti ha chiamato in causa. Basta mangiare di più e rimani sazio più a lungo. Ma chi è che sta tagliandosi le unghie da 10 minuti? No, secondo me queste sono costruzioni. No, non lo so. No, i miei figli sono ambedue impegnati in altro. No, sento uno stack. Allora stack. Gualdi che si fa le unghie, visto e considerato Gualdi, che sta. Hai cagato il cazzo. Che volete? Io mi sto facendo i cazzi miei. Sto guardando Facebook, cose importanti. Per esempio? Cosa ce n'è stasera? Dice, no, c'è gente che osanna Putin perché va a trovare i politici, sì, scusate, i malati per dargli il colpo di grazia in Russia. E si lamenta, ah, perché in Italia non lo fanno, e gente risponde, ma la quarantena vi dà la testa quando scrivete queste cose, cioè, ah, perché dovrebbero avere le palle di andare agli ospedali, ma fa cosa devono fare i politici italiani all'ospedale, cosa? Perché tanto i politici italiani si ammalano gente? Anche senza andarci. Sì, ma magari, cioè, tu ci vedi un Salvini che va a trovare i politici, giusto lui lo potrebbe fare, che va a trovare i poverini e dice, povero, guarda come soffre, guarda, cioè, ma perché dovrebbe andare, ma perché, cioè, ma cosa crea, cosa dà di più, cioè, io non capisco questi commenti del merda su Facebook, perché non aboliscono Facebook? A proposito di Salvini, non so se ne avete parlato voi in altre dirette, ma credo di no, e questa cosa secondo me è passata un po' troppo inosservata. L'altro giorno posta sui social un'immagine di lui che va a portare la spesa, tra l'altro una sportina miserabile con quattro stronzate, sedicente ai genitori, però gliela lascia in ascensore perché non li può incontrare. Ora c'è un problema, al di là della farsa di fare una cosa del genere sul social. Uno, Salvini è a Roma, i genitori stanno a Milano, quindi o ha violato tutti gli embarghi, è andato da Roma a Milano e da Milano a Roma non si sa con quali mezzi. Sono lo schiavo, molto semplice. No, oppure il 2 ha il teletrasporto e non ce lo dice. Oppure 3 è un cazzaro. Oppure 4 ha mandato lo schiavo, dai, cioè, potrebbe aver mandato lo schiavo, che è ancora peggio, cioè, il filippino sottopagato. Lobby, dici? No, pure se avesse usato il teletrasporto, comunque sarebbe in violazione dei decreti, no? Cioè, non vuol dire un cazzo così il teletrasporto. Sì, no, infatti nel decreto Conte il teletrasporto è espressamente vietato al di fuori del comune di residenza. No, infatti, però si potrebbe appendere sulle persone, fatto. Non io... sulle cose, perché io posso comprare e teletrasportare la roba nell'ascensore dei miei, non dentro casa, nell'ascensore. Sì, ma poi tra l'altro, cioè, di fa sta puttanata di mettere la foto. Ok, ti posso anche capire perché c'ha un social media manager che, vabbè, morisse. Madonna mia, che veramente. Solo ogni volta che lo sento parlare sento tipo un tremito nella forza. Cioè, vi giuro, io ogni volta che vedo quella persona mi pento con tutto il cuore di occuparmi di informatica, perché qualsiasi contributo dato a internet è servito a far guadagnare lui. Vi giuro, è una cosa che mi inquieta profondamente. Ma almeno fai vedere che gli hai fatto la spesa per una settimana, porca puttana. Sì, quella sportina era miserabile, veramente. Difatti, miserabile. Il primo commento che sta sotto, difatti, è: pigli 20 sacchi al mese, vergognate. No, io non so se avete visto la foto, è come se fosse, che ne so, una porzione di ravioli al vapore e una di riso dal cinese e basta, quello c'era nella busta. Senza manco le birre. Senza manco le birre, beh. Che poi, vabbè ragazzi, io... Vabbè, sono anziano. E quindi mangiano poco, sì. Vanno a dormire presto, perfetto, no? Mangiano poco, certo. Sì, infatti. Giusto, vabbè, giusto. Con un figlio come quello ci avete pure appetito, è quella la domanda che chissà cosa pensano oggi. Sì. vedevo oggi, non so se di recente, comunque un video che sta diffondendo in cui lui praticamente su TikTok mangia, beve un uovo crudo, cioè non morirà di coronavirus ma sicuramente di salmonella più che altro. Ma noi, è bellissimo. Malattie del genere, tra, insomma, a partire dal colesterolo alto in su, gliele stiamo curando da quest'estate minimo, eh. Ma secondo me, sai che succede? Succede come. Non è che gliela curiamo, lui se le procura, cioè. Sì, ma succederà come il signor Burns nei Simpson, che avrà tutte le malattie, solo che si incastra e non entra e nessuno lo ammazza. Ma ti giuro, l'ho appena rivisto su Disney Plus quell'episodio. Quando gli dicono lei ha tutte le malattie note all'uomo, più alcune appena scoperte in lei. Allora sono indistruttibile. Ragazzi, ma a proposito, l'avete provato Disney Plus? Dopo magari ne accenniamo? Con grande soddisfazione. Io no. Vabbè, tu sei così. Oggi un po' sei un po' sottotono, Gusi. Sono un po' sotto gamba, sì. Anche. Senti, invece Alex, tu? No, sarei curioso, però ne parlavo con una famiglia di amici di famiglia nostri che hanno due bambini, e per loro è un must, perché hanno bambini, una di 5, l'altro di 2 anni, forse 6 e 3 per dirti. Mm-hmm. Per cui avere il catalogo dei classici Disney, avere tutto quanto questa roba qui è per loro un must. Io devo dire la verità, sarei interessato a rivedermi decentemente, perché l'avevo scaricato male, Mandalorian e boh, 2-3 cosine, cioè ho visto un tweet che diceva c'è Willow, cazzo Willow, cioè lo riguarderei perché è uno dei forse film fantasy che amo di più di tutti, però devo dire la verità non mi intriga più di tanto, anche perché la campagna che sta facendo Disney nel nostro paese è assolutamente incentrata sui teenager, sulle High School Musicalate, presente, che dal mio punto di vista sono la morte del contenuto audiovisivo, per cui cioè frega veramente un cazzo. E devo dire la verità, nonostante tutto mi sto tenendo talmente tanto impegnato a studiare, a lavorare, oggi con mia moglie stiamo pulendo casa, ma pulendo cattivo, per cui cioè nel senso non è che abbia neanche così tanta roba da, cioè ho un backlog di roba interessante da vedere sia su Prime che su Netflix, e adesso Disney Plus mi sembra un plus, ecco, diciamo così. No, mi sembra di aver capito che c'è una settimana free prima di iniziare a pagare, magari in quella settimana mi faccio una scorpacciata di roba, però per farvi capire non ho ancora visto Picard. Allora, in realtà fino a ieri c'era questa offerta che se ti abbonavi subito, quindi in qualche modo rinunciavi alla settimana di prova, e in un'unica soluzione pagavi 59 euro per un anno, che sono 5 euro al mese. Adesso il suo prezzo reale credo sia 6 euro al mese. Sì, sono 60 di, no, 12, 70 euro. Sì, c'era 10 euro di sconto su un anno. Ma sapete che francamente mi sembra una di quelle cose che un anno mi interessa poco, mi interessa veramente magari fare un mese per mese, e magari lo sfrutto anche di più. Quando andavo in palestra, quando pagavo mese per mese, spendevo un sacco di soldi ma ci andavo tutti i giorni. Quando ho detto vabbè, ho deciso, sono uno costante, 6 mesi, ho smesso di andare, per cui anche per come sono fatto io preferisco spendere un po' di più, concentrare tutto, poi eventualmente staccare, anche perché poi devo dire la verità, voi avete un orizzonte temporale di un anno. Cioè io francamente non so cosa succede da qui a un mese nella nostra esistenza, ma non tanto perché moriremo tutti, ma quanto perché ci saranno grandi sconvolgimenti. Anche per farvi capire, hanno smesso di produrre contenuti. Sì, tutti quelli che producono mesi sarà un problema. Audiovisivi hanno detto siamo in pausa indefinitivamente, per cui secondo me magari il mondo ricomincia a macinare settembre, ottobre, a dicembre non avremo niente da guardare, ma niente. Per cui sai com'è, l'idea di pensare da qui un anno anche sti cazzi. Io sono convinto che tutti questi servizi, da Apple Plus, che secondo me ha degli ottimi contenuti, pochissimi, ma quei pochi che ha sono ottimi, Prime, che ha un po' più di contenuti e comunque molto molto buoni, Netflix, che ha 2-3 cose interessanti, un sacco di cagate, e Disney Plus, che secondo me è l'unico plus, è appunto avere il catalogo di tutto Marvel, per dire. Uno dice mi riguardo tutto l'MCU in una botta sola, o i classici Disney per i bambini, ma io ho che 40 anni e non ho ancora prole, per cui mi intriga di meno, e sarebbe interessante magari fare un mese di qui, un mese di lì, un mese di qui, un mese di lì. Cioè Netflix stessa ti dice, hanno questo approccio molto americano, molto bello, che vuoi venire bene, vuoi andare via bene, quando vuoi torna pure, esattamente come fa Sky in Italia, è presente, prova a disdire Sky, cioè fai prima ad assumere un serial killer che ammazzi una famiglia intera, che è molto più comodo, è molto più facile, spendi di meno probabilmente. Vabbè, quelle sono ancora, come dire, le modalità sincrone di tecnologie che ovviamente ti vincolavano, perché tempo ti appioppavano la parabola e tutte quelle cose lì. Credo che effettivamente comunque sui servizi in streaming digitale sia un po' più facile fare un mese sì, un mese no, perché nessuno degli abbonamenti più popolari ti vincola, cioè tu puoi fare un mese sì e nei mesi no. Scusate, una parentesi contenutistica, visto che Alex stava parlando di Apple TV. C'è una serie che è stata caricata su quella piattaforma, prodotta direttamente da loro, che si chiama Mythic Quest The Raven's Banquet. Parla di videogiochi, è una serie incentrata su un team di sviluppo che gestisce un gioco di ruolo online multiutente tipo World of Warcraft, ed è bellissima, è recitata bene, è divertente, tratta di contenuti attinenti veramente al mondo dei videogiochi online, c'è la puntata sui nazisti che è meravigliosa, e soprattutto è molto ben recitata. Se vi capita di attivare l'abbonamento, guardatela, perché è veramente meravigliosa. Io non l'avevo ignorata perché mi sembrava una cosa per teenager, un teen drama. No, assolutamente no, non è per teenager, anzi, forse un ragazzino ora non la capisce, un adulto che segue un po' il mondo dei videogiochi l'apprezza molto di più. Guarda, anche grazie, me la segno subito, perché per adesso tutto quello che ho tirato giù da Apple TV è notevolissimo. In ordine di bellezza, For All Mankind, bello, Madonna, bello, bello. Bellissimo. Mamma mia, che roba bella, che roba intensa. E mi ha tenuto veramente a volte sospeso, visto che comunque non è storia, ma è parastoria. Mi ha veramente detto, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. E poi anche The Morning Show, che è piaciuto tantissimo sia a me che alla mia moglie. Cioè, recitato bene, prodotto da Dio. Gli attori uno più bravo dell'altro, per cui se deve essere quello vorrei che fosse la cosa, cioè contenuti senza sbracare nella ipermerda, contenuti tra l'altro anche pensati per un pubblico più adulto, no? Non è tutto bimbo minchiate, tutto bimbo minchiate, tutto per teenager, cioè una roba anche perché può piacere a me e che abbia un quel valore, per cui per adesso Apple TV è quello che mi ha dato di più. Non ho ancora visto sì, un gioco di parole, però credo che lo guarderò insieme a mia moglie appena finisco di vedere quello che sto guardando adesso, che è riguardando con lei tutta Modern Family. Ragazzi, una domanda per chi lo sta usando: supporta la Chromecast? Perché io non so se ho dei dispositivi, ecco. E allora io per esempio, neanche volendo, perché... a me non mi sembra di no, no, ve lo confermo io, no. Allora dovrò aspettare, peccato, perché l'idea di fare la visione solo sull'iPad mi sembra francamente inutile. No, infatti, guarda, altro... vai, Disney, scusami. Plus non c'è l'applicazione per il mio Samsung 8K da 70 pollici, quindi che schifo, io non lo voglio. Ti compri un cacchio di Chromecast Ultra e te lo spari con quello. E se non c'è l'app, non c'è. No, dovrò comprare il TV nuovo che è supportato. Ti spari dall'app del cellulare o da PC sul Chromecast a 4K col Chromecast Ultra. Io lo sto facendo così, per why not? No, che barbonata è! Cioè, che poverata! Io, poveracci proprio. Ragazzi, tra l'altro, Conte deve aver rosicato di questa diretta, non so se avete visto, e alle 18:20, sì, boom, conferenza stampa, che poi saranno almeno le 17, conoscendolo. le 19, scusate. Comunque, se vi interessa, abbiamo i dati di oggi. Che non sono proprio belli. Vai. No, in realtà diminuiscono ancora il numero dei contagiati in progressione. Quindi abbiamo 3.612 persone, 743 morti. Quello non che ho trovato il numero dei guariti, male. Però il numero dei guariti era stato abbastanza alto. Però non riesco più a trovarlo. 804 guariti. 804 guariti. Quindi, ragazzi, è grigia, ma non è nera. Vediamola così. Sapevamo che questa roba qua sarà, fino al 15 di aprile saremo comunque lì a leggere i bollettini di guerra. Speriamo, forse anche prima, ripeto, cioè, speriamo di tornare, non dico alla normalità, ma una condizione meno di crisi gravissima. Adesso, mamma mia, che robe banali che ho detto. Dai, parliamo di figa, così almeno se sono più bravo. No, vabbè, anche quella è banale. È banana quella. È banana, però almeno è più orizzontale. Stimolante. Esatto. Disse una volta, anzi, non disse, scrissero una volta sul bagno dell'università. Di questo dibattito io mi faccio testimone, ma non entro nel merito tecnico. Sul bagno della facoltà, non mi ricordo se era statistica, non mi ricordo che era, c'era scritto: la figa è orizzontale. Risposta sotto: non è vero, la figa è verticale. terzo, che secondo me aveva fatto un esame intrippato poco dopo. Dipende dall'asse di riferimento. Ingegneri, mamma mia che roba bella. Noi a Bari nel bagno di ingegneria avevamo un vero e proprio topic. Nel senso, c'era uno che aveva scritto all'inizio: gli uomini si dividono in due grandi categorie, eterosessuali e omosessuali. Gli eterosessuali si dividono in due grandi categorie, quelli che vanno con le donne e gli ingegneri. Che storia triste. In realtà era molto più lunga, iniziava da genere umano, eccetera, eccetera, però arrivava a quello. E vabbè, origine... ragazzi. Dici Simone. Sto parlando di roba che sorvoliamo. Ma sì. Oh, tra l'altro, ragazzi, oggi nel marasma di cose è successa una cosa, diciamo, divertente. Alzi la mano chi non conosce Barillari. Io non lo conosco, non l'ho mai toccato proprio in vita mia, cioè proprio come argomento, non so chi sia. Allora, Barillari è un, come dire, è un politico del Movimento 5 Stelle che in qualche modo è stato tirato dentro. Scusa Walter, tu hai utilizzato la parola politico e 5 Stelle nella stessa frase, capisci che non si, cioè non, è un ossimoro. Però vabbè, dai. Comunque, diciamo, era in quota come consigliere alla Regione Lazio nel Movimento 5 Stelle, e lui in qualche modo è stato tirato dentro, pur essendo, come dire, un emerito, vabbè, ci siamo capiti, perché fondamentalmente ammiccava molto a quel piccolo popolino di Novax che fondamentalmente portano un discreto numero di voti al Movimento 5 Stelle. Ebbene, tante ne ha dette, tante ne ha fatte, soprattutto in questi giorni, che persino il Movimento 5 Stelle l'ha dovuto defenestrare. E ci ha informato tutti con i social su Twitter dicendo che oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno nel Movimento 5 Stelle, perché domani sarebbe stato espulso dai probiviri. Ed effettivamente vabbè, così è stato. Però spieghiamo perché, cioè non si è limitato a essere vicino all'area antivaccinista che sta vicino al Movimento 5 Stelle, ma non solo, in realtà anche alla Lega, è abbastanza trasversale. Ha proprio aperto un sito con una grafica molto vicina a quella del Dipartimento Sanità della Regione Lazio per fare controinformazione sull'epidemia Covid-19 e sui vaccini. Cioè non si è limitato a esporre un'opinione che viva sì, esatto, bene. Cioè, ha proprio messo un atto concreto, cioè hai fatto un sito in cui stai, vabbè, io... delegittimando il lavoro del governo e della sanità italiana. Cioè io le critiche, per carità, vanno benissimo. Il problema è che qui non stiamo discutendo un'opinione, stiamo discutendo di una questione scientifica, dove le cose funzionano in una determinata maniera fino a prova contraria. Le prove contrarie o ce l'hai o le tue sono supposizioni. Ora vi lascio immaginare Barillari, che tra l'altro è un mio ex collega, nel senso che più o meno faceva il lavoro mio in un'azienda di cui non farò il nome, quanto cacchio ne può sapere di microbiologia e di immunologia. Ma la cosa divertente è che ne sa un pochino di internet, sì. E cosa ha fatto il genio? Ha aperto da solo una petizione su change.org per, come dire, per contrastare questa espulsione da parte del Movimento 5 Stelle, e ha messo come primo obiettivo, che forse ha già raggiunto, 1000 firme. La cosa bella è che lo stanno votando dopo appositamente per trollarlo. Dopo che cosa sblocca? DLC, dopo che cosa sblocca? DLC, nuove skin. Penso di sì, penso di sì. Gli stretch goal quali sono? Perché considerate che tra le figure eminenti che lo hanno votato c'è Burioni, che giustamente... Premesso, Burioni ultimamente non è che mi sta molto simpatico, però in questo è stato un geniaccio, nel senso che lui è l'emblema di un certo tipo di disinformazione, ed è uno dei pilastri del Movimento 5 Stelle, cioè è uno dei canoni fondatori del Movimento 5 Stelle, il concetto Novax, ci devi rimanere canoni dentro a spinta. Canoni nel senso di grandi cani. Eh? Canoni nel senso di grandi cani. Sì, grandi di dimensioni. Canoni. I canoni. Sì. Pure ancora un'altra cosa. Anche sì, quella ancora un'altra. Io inviterei, se Carmine è davanti al computer, a commentare lui stesso l'ultima indicazione che ha messo in chat Lucio, perché tanto ne avremmo parlato a breve, visto che lui penso che la cosa l'abbia vista più da vicino che noi. Dicci. Ah sì, ma in realtà questa la stavo vedendo anch'io sul sito dell'ANSA prima. Allora, devo dire che noi in Puglia siamo dotati di un livello di diversione dell'attenzione, veramente epico. Che cosa è successo? Ma anche di genio creativo, No, ma assolutamente. Cioè, noi probabilmente se De Luca vede sta cosa ci invade. Allora, che cosa è successo? Un gruppo di operai pugliesi di stanza a Brescia ha girato il divieto di spostamento in che modo? Se la sono fatta in un furgone da Brescia fino al casello di Bari Nord. In realtà non è esattamente al casello, da quello che ho capito hanno lasciato il furgone all'interno della stazione di servizio che è immediatamente prima del casello Bari Nord, l'hanno mollato lì, si sono infilati le mascherine e a piedi sono entrati all'interno del raccordo della statale e a piedi sono tornati a casa. Signori, il gesto. Fischiettando dietro la mascherina. Però sono stati beccati dalle telecamere comunali che hanno incrociato con le registrazioni della stazione di servizio e quindi sono risaliti all'identità dei 7 emigranti. Ma io, la gente con questo livello di incoscienza, io non capisco se. Lobby, aiutami a capire. È perché credono di essere sani fino a prova contraria o perché? Ma sicuramente non credono di essere scemi fino a prova contraria. Noi lo crediamo, però porca puttana, cioè, non lo so, c'è del disagio, questo c'è tanto, in realtà, diciamo, un modo controproducente, diciamo, di affrontare il loro disagio, che devono tornare giù, devono. Poi lascia stare che sono rimasti in cassa integrazione, se non mi sbaglio, perché comunque con l'ultimo decreto, No, non si sa. No. In realtà. Non si sa in realtà. Boh. Non lo sappiamo. Vabbè, trovi qualcosa da fare al nord, no? A Brescia, no? Che cazzo ne so? Pure a giocare a palline, che cacchio ne so? Vabbè, no, Brescia è in questo momento, credo, la zona insieme a Bergamo messa peggio. Però quello che è anche molto pericoloso per i loro familiari, a meno che non siano stati tanto intelligenti da andarsi a rinchiudere da soli in una casa di campagna ed evitare il contatto con il prossimo, ma la vedo dura. In realtà c'è un'altra cosa che riportava un mio amico che fa l'avvocato in Sicilia, che in pratica è stato chiamato a fare difesa di ufficio di una ragazza che hanno fermato praticamente allo sbarco dei traghetti, e questa ha ammesso alla domanda "scusa, ma da dove vieni?" candidamente di essersi mossa da Bergamo con i treni locali, uno alla volta, fino ad arrivare a Roma, e da Roma essere riuscita a prendere, non si è capito come, sempre andando per treni locali fino ad arrivare in Calabria e poi a prendere il traghetto. Brava, cioè bisogna quasi, secondo me bisogna fare un applauso, nel senso l'ingegno e la perseveranza. No, ma pensa, tipo torna a casa Alessi, che si è messa a studiare tutte le cacchio di coincidenze dei treni locali da Brescia fino a Mazzara del Vallo, non lo so, Ma speriamo che sia negativa, insomma, che non abbia virus, perché sennò è infettato proprio proprio quello pensato. Se no, anziché torna a casa Alessi diventa torna a Catalessi. Gusella, questa è sottotono pure per te, fattelo dire. Vabbè, sì, era qualcosa di più scoppiettante, però. Cioè, io ritengo che Gusella abbia bisogno di aiuto psicologico. Quindi abbiamo tra di noi una persona che potrebbe supportarlo. Sono di più. Però l'articolo 28 del. C'è l'articolo 28 del codice deontologico che mi impedisce di avere rapporti lavorativi con gente, con conoscenti, amici, eccetera, eccetera. Quindi o gente che comunque è già perduta di suo e non può essere recuperata. Sì. I miei poteri arrivano fino a un certo punto, poi ci vuole solo Gesù Cristo. Ci vuole solo il trapianto d'organo direttamente. Però all'organo, aspetta, questo è preoccupante. Mamma mia, del resto tutti sappiamo che Simone Gusella predilige la chitarra. La chitarra. Oh ragazzi, no, invece oggi sapete che un'altra di queste cose da bestemmia è successa a me. Sono andato a fare la spesa più o meno verso l'ora di pranzo. Tra le varie cose che ho visto, una che veramente ci sarebbe stato da discutere a brutto muso con la persona che ho visto, c'era un tale al supermercato che nel reparto frutta e verdura era perfettamente imbardato con una mascherina perché ovviamente non sia mai che mi passi qualche malattia, ma non aveva i guanti e toccava sistematicamente ogni singolo frutto, ogni singolo peperone, ogni singola zucchina, perché più di una persona abbiamo fatto notare: scusa, ma te c'è la mascherina perché c'ha paura? E poi con ste mani? E ti ha risposto: no, perché è carnevale. Esatto. Gesù. Che poi, tra l'altro, cioè, nei supermercati non si può più comunque toccare la frutta senza avere il guanto, perlomeno quello di plastica. Sai qual è il fatto? Che qui da noi, da un punto di vista di, diciamo, di presidio sanitario extra, non è che quando entri ti danno nulla. Io mi sarei aspettato che almeno un paio di guanti te li dessero. Non te li danno, e al banco di frutta e ventura ci sono i classici usa e getta, quelli assolutamente inutili. Però, insomma, li ho sempre messi, li mettiamo a maggior ragione adesso. Qualcuno evidentemente pensa di no. Ah, io devo dire invece, qua in zona, che siamo tendenzialmente più indisciplinati, quello che ho notato andando quelle due volte che sono evaso di casa per andare a fare la spesa, ho notato che quasi tutti i clienti del supermercato sono arrivati con i guanti di gomma già addosso e con la mascherina già addosso. Però con le dita nel naso. Però le dita nel naso sono già addosso. Già addosso. No, comunque, seriamente, non mi aspettavo tutta questa attenzione dai miei concittadini. Invece, bravi, siamo andati bene. Viva i concittadini. Tutto questo ma tutto questo senza De Luca alle porte, che voglio dire, è un ottimo deterrente. Tra l'altro, a proposito di De Luca, mi spiace che non c'è Rizzard in ascolto, ma avete visto l'altro De Luca che sta combinando? Quella Catania. No, scusate. Sì, Messina. Messina. Quello che c'ha un nome strano, tipo Caccolo. Cateno. Cateto. No, spiegate un po' che non ho seguito. Niente, praticamente si è piazzato al porto di Messina, al porto dello stretto, a verificare chi arrivava dai traghetti e perché. Si è messo a fare il presidio umano, tra l'altro pure senza mascherina. Diciamo che un po' c'ha ragione, perché, cioè, a che pro tu stai a tornare in Sicilia, ci stai abitando, che tipo di trasferimento è? Sta gente che in effetti è rimasta in macchina stanotte, perché non l'hanno fatto passare, perché non c'erano effettivamente le motivazioni per poter passare. Beh, la domanda che mi pongo è: perché non li fermano alla partenza? Il problema è quello, infatti lui dice questo qui, perché non vengono fatti i controlli? Cioè, se la gente non si deve spostare, non si deve spostare, cioè non è che arriva qui e siamo noi che dobbiamo beccare tutta quanta la situazione. Succede, da quel punto di vista c'ha pure ragione, insomma, infatti sta incazzato come una biscia. La questione è che si dovrebbe decidere che i trasporti pubblici si interrompono in certi, come dire, entro certi termini, entro certe misure e via. Perché se no non c'è avere mai un cacchio di motivo. Come che non puoi uscire dalla... sì, perché sempre ci stanno le cose che vengono fatte, i decreti. Non si può spostare, però se c'è la giusta causa, però se ci sta quest'altro, però se ci sta quest'altra cosa ancora, lasciano le zone grigie, e queste zone grigie la gente ce le muove. Beh, non male, poi si vede. Il problema è quello. Comunque qui è esploso un tubo, quindi a posto. Scusa, dicevi? Usella, ti abbiamo perso, dicevi? Ah, che il problema non sono le zone grigie che vengono lasciate, sono le zone rosse che non vengono rispettate. Ah, ma poi dicevo, cioè, noi abbiamo... Questa era una perla, ragazzi. Una pirla di riscattata. Ma ciò che è anche il fatto, come dimostra la ragazzina di cui vi parlavo prima, che avendo un sistema di trasporto locale che è così interconnesso zona per zona, cioè anche utilizzando i mezzi di trasporto che devi lasciare aperti, come le ferrovie locali, un modo per aggirare l'ostacolo lo trovi. Beh sì, come si dice, fatta la legge, scovato l'arcano. Trovato l'inganno, che è scovato l'arcano? Ma quello, insomma, Dragon. Finita la festa, gabbato lo santo, quante ne vuoi, insomma. No, tra l'altro, volevo dare una notizia in particolare ad Alex e a Simone Gusella, che probabilmente l'hanno già saputo dai media. Però, io sono il suono di razziatori. Che cos'era? Io vi sento proprio male. Ma quello sei tu, è proprio innato in te. Dici, sono io che mi sento male. Sì. No, volevo dire, come avete preso il fatto che Bertolaso manco il tempo di entrare in carica in questo ruolo per la protezione, no, per la regione Lombardia, che già si è preso il coronavirus? lui sta sperimentando. Secondo me sta sperimentando bene come problema. Questa non la sapevo. Sì, prende gli anticorpi e può andare ovunque, capito? Cioè, tutto. No, ma poi il commento in particolare che vorrei da Alex e poi anche da Simone è in conseguenza di questa situazione l'esternazione di Fontana che ha detto: ma io l'ho visto solo 2 minuti, non mi rimetto in quarantena. No, giuro. Allora, cioè, quando volete fare notizia, nel senso, i miei mogli si sono guardati in faccia, sì, vabbè, ovvio, cioè, nel senso, era abbastanza scontatabile. Quello di Fontana non lo sapevo, mi sono messo a ridere adesso che me l'hai detto, però vabbè, devo dire che non sono quasi, non sto dicendo che non mi stanno deludendo, però devo dire che pensavo peggio tra tutti i politici di tutto lo stivale. Ovvio, quelli che non stanno facendo niente se non facendo la spesa per i propri genitori, anche male. Questi qui mi fanno, vabbè, però sono degli sciacalli, lo erano prima, lo sono anche adesso, ovviamente ricevono la copertura mediatica più della nota di folklore su Facebook, su questi canali, per cui adesso come adesso non mi rasserena anche la cosa. Poi ovviamente quando tutto questo sarà finito tornerà ad essere tutto come prima e torneremo a incazzarci a barca madonnare tutti quanti. A me prima o poi, no, vai, prima, dicevo soltanto che prima o poi giustamente le cose torneranno come prima, tutti quanti a fare gli sciagalli, le propagande come si faceva una volta, insomma. È bello che ci stanno provando anche adesso in realtà, solo che non lo so se si sono riscoperti un pochino più intelligenti gli italiani, però comunque continuano a fare sti sondaggi che non servono un cazzo, ribadiamolo, i sondaggi non servono un cazzo, però comunque, cioè, praticamente loro, praticamente, o che ore sono? O sono le 4, il mio appuntamento quotidiano per perdere. Ragazzi, Conte punti... intanto sta parlando, poi vabbè, capiremo dopo. Ma che ore sono .com ci vuole? Ah, sì. Ma sì, sì, cavolo. Poi dopo l'ultimo annuncio è stato bello anche le risposte dei vari Salvini, l'altro Matteo sugli annunci così a caso su Facebook, ma il più bello è stato quello della Meloni: comunicazione da regime totalitario. Ma sta Cess, bella FIFA scist pocule l'altra. Sì, cioè, sì, ma proprio parole e libertà, la Meloni, cioè, sta dimostrando la sua nullità umana in questo periodo, perché proprio non riesce ad argomentare senza di una stronzata. Scusate, va assolutamente citato Corrado Guzzanti. Facile fare i fascisti in uno stato democratico, provate a fare i democratici in uno stato fascista. Bellissima. Bella. Comunque devo dire, Conte è pettinato benissimo. Sì, però c'ha la ricrescita, eh. Un po' sì. Non c'ha, so quelle basette grigie alla Reed Richards. Qua bravo, esatto. Ieri. O alla Al Jordan, dipende, se più Lanterna Verde o più Mr. Fantastic. Però devo dire, l'accostamento cravatta-camicia... Tutto questo perché io ho degli amici fantastici su Facebook che durante la prima diretta il massimo che riuscirono a dire fu: eh vabbè, però la pochette, che cagata. Proposito, Carmine, lui è delle tue parti, giusto? Di origine pugliese? Ma è buono, nelle mie parti. È di Foggia. Mamma mia, fuggi da Foggia. Zona che noi pugliesi, cioè noi gli accettiamo. Dove sto trasmettendo, Conte? Così intanto. Su Facebook sicuramente, su YouTube anche. Su YouTube. Guarda, io lo sto vedendo rilanciato da Repubblica, non ti so dire, cioè, lo... sì, che va a scatti Repubblica, tra l'altro. Se vedete sulla chat di Spreaker l'ho incollato la diretta da YouTube, sì. Il link di YouTube. Mi piacerebbe poter interpretare il LIS in questo momento, così potrei sapere cosa sta dicendo. Dovrei abbassare voi, però non ci riesco. Vabbè, tanto tra poco ce lo riassumeranno tranquillamente. Sì, sì, lo recuperiamo dopo, dai. Tornando invece alle nostre, diciamo, al nostro tema centrale, no? Volevo capire da voi, insomma, per esempio Lobby. Tu che... Chi è che fa il casino? È sempre qua, è il microfono di Gualdi, non ti preoccupare. Gualdi è cagato al cazzo, ma sinceramente basta. Ho stato guardando le cose di Conte, mi sono dovuto togliere il microfono, la microfonazione. La, no, ma qui lo stavi togliendo e rimettendo tre volte al secondo da basta. Comunque è anche il video quello originale che salta. Cioè, sì, sì, è vero. Vabbè, alta tecnologia come sempre. Volevo chiedere. Ci siamo? Sì. Volevo chiedere al Lobby, che ha fatto un salto di vita non indifferente perché da Salerno è passato a vivere in Emilia, come sono cambiati i suoi orari e se questa cosa all'inizio l'ha scioccato, tipo l'orario della cena, l'orario dell'aperitivo, l'aperitivo stesso. A parte che quando ho lasciato la cara campagna per venire in Emilia non si usava ancora l'aperitivo giù, quindi figuriamoci, ne è passato un po' di acqua sotto i ponti, quindi l'aperitivo quindi è una cosa che ho assunto qua. Per quanto riguarda gli orari, scusa Lobby, per me l'aperitivo da Ciro a Mergellina esiste da prima che esisto io, eh. Sì, però che ti posso dire, a Salerno non si usava. Anzi, usava. Oppure si faceva qualcosa, ma non lo chiamavamo aperitivo. Non aveva la stessa forma che ha assunto qua, diciamo così. E boh, a livello di orari, di cibo, di mangiazione, ho fatto sempre un pochino come cazzo mi pareva giù. Quindi figuriamoci anche qua. Qui dipende, si va da giorno in giorno, a volte si mangia sul tardi, a volte prima, non mi ha mai davvero scombussolato sta roba, in realtà io, ma anche per, come dice sempre Alex, io sono un diversamente terrone, nel senso che per molte cose non mi rivedo nel folklore terronico, però non disconosco le mie origini, infatti dico sempre che la mia madrelingua comunque è il campano, poi c'è l'italiano e poi vabbè un po' di inglese, un po' di francese, un po' di queste cose qua. No, francese anche quindi no, più dai. Di tanto Francesco, no, scusami, di tu come ti collochi come campano e come uomo del sud rispetto al concetto di apericena? Comune in provincia di Bari, COVID peraltro, adesso, no? Parliamo di quello. Apericena, sì, certo. No, assolutamente sì. O meglio, lo concepisco un pochino come fare la cacca, nel senso la fai ma non la dici, nel senso... Ah, pensavo è tanto liberatorio, come diceva Funari. No. La fai pure, mangi pure, non lo so, perché qua ci sono dei locali dove tipo 8 euro un prosecco e portano tre cacchette in croce, invece altre parti, altri locali, basta andare 200 metri, c'è un locale dove mangi a sbafo tutto, il bere è decente, 5-6 euro te la cavi, e lì tecnicamente puoi fare una pericina, però non lo chiami così, perché nel momento, un pochino come quando, non lo so, non sei vegano, però ti mangi, che cavolo ne so, qualcosa tipo le friselle col pomodoro e l'olio e l'origano, tu te la mangi tranquillamente, però se ti dicono che tecnicamente un piatto vegano non c'è niente di animale, lo guardi con sospetto poi quel piatto, secondo me. Vabbè. Non so se ho reso. Assolutamente. Allora, io stavo leggendo alcuni commenti in chat, anzi mi scuso perché l'abbiamo un po' trascurata oggi, mia colpa. Per esempio, Alina dice: l'aperitivo giù e il cenone di Natale di su. Ma da quale pulpito? Perché qui parla una dell'est, che cazzo ne deve sapere lei? Vabbè. Oh, del resto pure Cannavacciuolo ha detto che il pranzo della domenica a Napoli è il cenone di San Silvestro a Milano. Ora, e qualcuno sarebbe però... contraddirlo? Ora dico una parola e ad apro una voragine, però matrimonio. Ma porca miseria, io ancora mi ricordo il mio. E io che, cioè, sapete, me l'hanno raccontato Simone e Michela tranquillamente, io non mangio un cazzo. Però devo dire, io al mio matrimonio ho visto che io non partecipo volentieri ai matrimoni. Soprattutto ai tuoi. Volentieri. Sì, no. Sì, ma difatti io dico sempre, io ho partecipato a 5 matrimoni, 3 come testimone, 1 come imputato e 1 come ospite, meno di recente. Stavo dicendo, io ho visto veramente Roma che non mi aspettavo, cioè mi sono messo a guardare gli invitati perché un po' il nervoso, un po' il fatto che io già di mio non mangio, giravo per i tavoli, parlavo. Io ho un amico che non lo so se adesso ci sta ascoltando, che è Vincenzo Salvatore, Vincenzo di Roma, che è famoso per mangiarsi qualsiasi cosa, per bersi qualsiasi cosa, però sempre con molto gusto. È una persona estremamente raffinata. Ti dà soddisfazione? Assolutamente. Ma è, mia moglie lo adora, perché qualsiasi cosa mia moglie cucini, lui almeno la assaggia, la prova, ti dà dei pareri. A fine ricevimento, il titolare della sala è venuto da me, ha detto: mi scusi, come si chiama quel signore? Mi ha indicato lui. Ha detto: no, è Vincenzo, perché gli vado a fare i complimenti. Non ho mai visto mangiare nessuno in questa maniera da quando possiedo questa sala ricevimento. Tipo le 12 fatiche di Asterix. Sì, sì, no, no, ma il bello è che neanche ingrassa, cioè è mediamente è normale, non è neanche fuori forma. Beh, è un gran metabolismo, insomma. Tra l'altro, io non approfitto per parlare di Asterix, visto che oggi è mancato il disegnatore storico, che è Alberto Uderzo. Perché Uderzo, per quanto è di origine italiana, quindi Uderzo, ecco. Ma infatti è Uderz. Io vi racconto questa piccola cosa. Negli anni, da ex tecnico informatico, ho avuto a che fare parecchi anni con dei centralini VoIP, e quindi con il software specifico più comune che Asterisk. Oh, non riesco più a dire Asterix. Ci devo pensare, se no dico Asterisk. Scusate, poi vi giuro che sto zitto per mezz'ora, ma questa ve la devo dire. Io sono particolarmente legato ad Asterix e Obelix. Anch'io. Perché io ho mia madre, che era una professoressa di francese, ora in pensione, e quando ero molto piccolo, tipo 5 anni, lei mi ha insegnato a leggere in francese con gli albi di Asterix, dicendomi: no amore, guarda, non esistono in italiano. Un pomeriggio mio padre e mia madre mi hanno portato alla libreria La Terza a Bari, che è una proto Feltrinelli, per capirci. E io, girando, trovai i volumi di Asterix. Ne aprì uno ed erano in italiano. Avevo avuto 6 anni, 7. Sono accorso da mia madre dicendo: mamma, guarda che bello, li hanno fatti in italiano. E mio padre mi ha guardato con tutta la compassione che umanamente è possibile di un padre verso un figlio. Ah, più ciò. È da Moe che li hanno tradotti in italiano. Dai retta a tua madre. Però devo dire, almeno è servito per imparare una base di francese in tenera età. E tu, col senno di poi, avendo capito questi meccanismi in tenera età, dopo ti sei pure sposato? No vabbè, mia moglie almeno non mi ha mai truffato a questi livelli. No, perché non te l'ha mai confessato. No, scherzo, ci mancherebbe. Possibile. No. Invece, stavamo leggendo un paio di cose ancora in chat e volevo anche raccontare un'altra cosa, però me la sono persa tra le letture dei commenti anche al discorso di Conte. Il primo che ci fa un riassunto in chat, gli facciamo un monumento, perché ovviamente non lo stiamo ascoltando, perché insomma non abbiamo questo dono. No, di quel poco che ho visto, che ho sentito io, che praticamente la storia del 31 di luglio, che già c'è da un po' di tempo, perché allora fino al 31 di luglio saranno, no, la situazione di emergenza è già da fine gennaio e fino al 31 di luglio, ovviamente. E ovviamente serve per poter utilizzare le restrizioni, tutte quante le cose che si debbono utilizzare per limitare l'uso il diffondersi del virus. Appena cessa il pericolo, possono cominciare a far cessare anche le limitazioni, non necessariamente fino al 31 luglio, si spera prima, insomma, in base a se la gente fa come gli pare, è capace che ci si arriva, se viene tutto rispettato, no. Le sanzioni vanno dai 300, mi sembra, dalle 300-400 euro fino alle 3.000, che vengono aumentate di un terzo se ti beccano, che senza motivo giusto che va in giro, che può essere aumentato di un terzo se sei alla guida di un veicolo. Questa cosa non l'ho capita, perché fondamentalmente perché se stai in macchina sei più grave. Perché ti indica che ti puoi più facilmente spostare da un comune all'altro, che è una di quelle cose che ora andrebbe evitata. Comunque, se guardate il video di YouTube, in questo momento hanno fatto vedere la scrivania della sala stampa, che è completamente trasparente in vetro, fa un effetto orrendo, ma soprattutto hanno fatto vedere che la conferenza stampa, le domande dei giornalisti, le stanno facendo tutte utilizzando una chat room di Skype. Sì, vabbè. Inguardabile. Cioè, i potenti mezzi, ragazzi. Ma tra l'altro non ho capito perché non si vede il nome dell'utente, si vede il nome del dispositivo, quindi è comparso tipo un iPhone di Leana. No, aspetta, tu non hai visto un dettaglio, iPhone di Giuseppe. Ah vabbè, sì, ma pure io ho pensato che fosse bellissimo. No, in realtà loro c'è scritto Palazzo Chigi, l'account che stanno usando, l'hanno fatto vedere sotto. Intanto, cioè, vi comunico che nella chat della mia famiglia ci sono tipo mia zia e altri parenti che mi stanno ascoltando, quindi io stasera verrò, penso, sciolto nell'acido. Andiamo avanti, però. Quindi finché ti teniamo in vita, in diretta, sei anche tu in vita. Sì, sì, no, continuiamo così, intanto spengo il cellulare, ragazzi. Ok. Vabbè, in realtà è vero che sanno dove abiti, ma non ti possono raggiungere per divieto. E in effetti no. Fino al 3 aprile. Esatto, dopo, guarda, goditela finché puoi. Insomma, ragazzi, come sta andando questa... Non sto seguendo le domande, però alla fine... No. Dicevo, questa quarantena, ormai siamo più o meno 2 settimane, se non di più, per tutti, perché mercoledì scorso, mi sembra, ci fu il decreto. Io ricordo che martedì scorso, nel primo pomeriggio, ho lasciato l'ufficio. Quindi, due martedì fa. Quindi direi che alle 2 settimane ci siamo arrivati più o meno tutti. Sì. Sì, decisamente. Vi state abituando, vi state assuefando a questi ritmi? Sì, devo dire che ieri e oggi, i primi 2 giorni che sono... Sì, dai, ma che me frega, va bene così. Ci svegliamo relativamente tardi, cioè un'ora più tardi del solito. Andiamo a letto un pochettino più tardi del solito, per cui dormiamo di più. Guardiamo un sacco di televisione, facciamo un sacco di lavoro in casa. Il lavoro è rallentato perché la prima settimana è no, ma dobbiamo far vedere che ci siamo. Poi anche i clienti hanno smesso di esserci, perché per cui è tutta una sorta di sonno. Diciamo che vedo tutta una sorta di ibernazione. Ieri mi hanno chiesto un preventivo. L'altro ieri mi hanno chiesto un preventivo per dei video di interviste. E oggi gli ho detto: devo farti delle domande. No, guarda, hanno bloccato tutto. Ma va, cioè, già. Ci sta tutta questa cosa, diciamo che è tutto rallentato, e devo dire che mentre la prima settimana mi faceva un sacco di ansia, oddio, cosa succederà, adesso dico vabbè, sai che c'è, alla fine per una volta non è colpa mia, vaffanculo, cioè quel che succede succede, e mi sono adattato tante volte nella mia vita a fare cambiare vita, cambiare ritmi, cambiare cose, lo farò un'altra volta, e serve per mantenersi giovane, dai, mettiamola così. Per cui io la sto vivendo sicuramente meglio adesso di prima. Mi manca un po' di andare a fare il mio giro in bici, però vabbè, pace, ricominceremo più forti dopo. Gusella, la tua quarantena, tu e la tua stampante 3D che fa gnigo gnago tutto il giorno, come va? La mia quarantena dura più o meno da 4 mesi, quindi sinceramente non te ne sei accorto, quindi roba del virus. No. Ma come procede il lavoro? Bene, ho appena finito un lavoro secondario che andava avanti appunto da 4 mesi, quindi sono libero. Adesso vado in giro a farmi arrestare così per festeggiare. Per riflesso condizionato. No, ma non ti arrestano, ti fanno una multa e ti fanno praticamente spendere tutto quello che hai guadagnato negli ultimi 4 mesi. È il riflesso condizionale questo, però, se mi arrestano. È la condizionale, sì. Sì. No, beh, quindi insomma, alla fin fine non è cambiato veramente niente. E basta, questa è la mia triste storia che vi racconto stasera. Gusella, dobbiamo portarti una donna al volo, catapultandotela da qualche parte fino a casa tua, perché tu devi assolutamente tirarti su di morale. Ma anche non una gonfiabile, secondo me, esatto. Secondo me, in questo momento la Real Doll può rientrare nei beni primari, quindi Amazon te la manda. Guardo, ho visto un video bellissimo in cui si fa un surrogato con un guanto di lattice. Sì, l'abbiamo visto tutti. Anche io. Con tanto di doppio ingresso, con attico anche. Quindi vabbè, bellissimo quel video. Con vano cottura anche. Esatto, sì. Anche un vano coltura se non lo lavi subito. Mamma mia. Beh, scusate, d'altra parte. A proposito, Gualdi, invece tu, che mi pare di capire che non esci nemmeno per andare a fare la spesa, perché se la macchina non la prendi da, quanto hai detto, 3 settimane, dici la tua vita. Poi c'è Bangladesh davanti casa. Nel senso dello Stato proprio, cioè confine. Esatto. No, ricordiamolo per chi non avesse fatto quella specifica diretta con noi: Marco di fronte casa ha un negozio che vende Bangladesh. nel senso proprio piccoli stati di Bangladesh. Del Bangladesh. Sì, un po' come i sassi toscani. Non portate via il sesso dalla Toscana. Esatto. No, pensavo gli ofilizzati, cioè poi lo bagni e ti diventa della dimensione. Fa molto Futurama sta cosa. Madonna. Oh, però se non c'è Futurama su Disney Plus, signori. Non c'è Futurama. Non c'è perché credo che una parte delle serie fosse di Fox, poi è stata continuata da un altro broadcaster quando Fox decise di interromperla. Adesso non ricordo bene, però i diritti sono spezzettati. Sono frantumati. Comunque, io la mia speranza è che dovrà essere comprato dalla Disney, infatti, tra poco, perché sì, ma tra poco, cioè. Io attendo con ansia il momento in cui la Disney si comprerà anche la Detective Comics. No, ragazzi, forse voi non avete capito, è ancora fanta economia. Però siccome la Disney, che ovviamente avrà un contraccolpo economico enorme da questa interruzione di vita, perché i parchi sono fermi, i cinema, le produzioni cinematografiche sono ferme e così via, la Disney potrebbe indebolirsi quel tanto che basta da essere acquisita da Apple. La scalata di Apple. Allora, guarda, sta cosa l'ho letta anch'io. Però, diciamo, i giornalisti di economia, quelli di cui mi fido di più, spiegavano che sì, è una possibilità remota in futuro, però è anche vero che Disney dispone di una liquidità, parliamo proprio di cash in banca, che gli permette di sopravvivere senza... Difatti non ha avuto un contraccolpo mostruoso, ha avuto un contraccolpo pari a quello che hanno avuto tutti quanti. Poi secondo me dovremmo anche considerare che, siccome non penso ci aspetti un anno felice, anche se molti parlano di fenomeno a V, cioè che avremo un precipizio e poi una rapida risalita dell'economia. Io non so quanto venderanno i nuovi iPhone, i nuovi MacBook Air, i nuovi Mac Mini, cioè non penso che anche Apple in questo momento stia pensando di fare investimenti. Ragazzi, io la butto lì, poi mi dite tutti quanti voi la vostra opinione in questo. Forse la volta è buona che ricominciamo a ristabilire certe priorità e a capire quali sono le cose veramente importanti? Sicuramente sarà così. Volevo aggiungere una cosa: secondo me Apple non potrebbe essere tentata, ma è troppo grossa. Apple tende sempre ad acquisire delle cose relativamente di dimensioni medio piccole, perché in questo modo le può fare proprie. Questo per cultura loro. Disney non puoi comprartela senza diventare tu stesso Disney, cioè nel senso Disney non diventerebbe una roba di Apple, sarebbe Apple a diventare una roba di Disney, pertanto la cultura e la costruzione delle cose, per cui non credo che siano interessati a questo tipo di cose. Avrebbe quasi più senso per loro, e non l'avrebbe, comprarsi una Netflix, per dirti, per avere contenuti, però loro hanno avuto questo approccio. Sai che c'è? Ce li facciamo noi, ne facciamo pochi, li facciamo belli. Che può essere una cosa positiva o negativa. C'è da dire che fino adesso loro hanno detto, negli ultimi 2 anni, investiamo più sui contenuti che sui contenitori. I contenitori poi li vendono a priori, a prescindere, cioè nel senso, loro comunque venderanno una vagonata di iPhone, ne venderanno molti meno quest'anno, probabilmente il 30% in meno, il 50% in meno, sì, ma di qualsiasi cosa si venderà il 50% in meno, per cui sarà una sorta di probabilmente l'economia sarà lineare in questo, non ci sarà chi più danneggiato di altri, questo sicuramente. Assolutamente, in realtà, cioè nel senso, il fatto che tutto il mondo è disincrono, le cose saranno molto più lunghe, nel senso è molto probabile che non dico che non ci sarà un iPhone 12, però potrebbe anche essere che non esce a settembre ma esce a marzo dell'anno prossimo, perché mi diceva un tizio che lavora in Lenovo, noi non abbiamo paura di riaprire, però quando riapriamo noi c'è tutta una sorta di catena di robe disincrone, per cui i materiali arriveranno con un po' di ritardo, certo. I semilavorati dei materiali arriveranno, cioè, comunque ci sarà un contraccolpo lungo, per cui magari non sarà una V simmetrica, ma sarà un crollo verticale e poi una risalita che invece di metterci 2 mesi ci metterà 2 anni, per ma dire. Guarda, l'esempio banale lo possiamo fare col cinema. I cinema possono riaprire domani, ma per girare un film che è stato interrotto ci vorranno mesi. Sì, è vero, assolutamente. Detto questo, io voglio andare a vedere, voglio andare al cinema e voglio tornare, voglio proprio andare a vedere, ah cazzo, visto che ci vado pochissime volte all'anno, voglio andarci per festeggiare questa sorta di rinascita. C'è anche da capire come riusciremo a festeggiare, cosa riusciremo a fare, cosa rimarrà vivo, cosa non rimarrà vivo. Però oggi sono particolarmente positivo, vaffanculo, andate a cagare voi negativisti. La cosa che sto vedendo su internet è un sacco di frustrazione situazione. Ah, non avete capito, il mondo fa schifo. Cioè, ci sono quelli che non riapriamo. È la scoperta, scusa, del cinismo. Esatto, quelli che non riapriamo fino a settembre. Fino a settembre sarà tutto bloccato, va bene. Quelli che Conte non doveva chiudere l'Italia, l'economia è più importante della salute. E dice, vabbè, cioè nel senso, io sono lì che dico, non è neanche sbagliata per certi versi, però va bene, nel senso, però l'idea di avere questa uscita mi spaventa. A questo punto ho detto, io lo sto vivendo, ve l'ho detto, cioè non è colpa mia, no, allora vaffanculo, che succeda succede e basta. Auguro a tutti, veramente a tutti quanti, quelli che conosco e quelli che anche conosco poco, di stare bene voi e le persone a cui volete bene, basta. E questo augurio non si può che ridistribuire a tutti quanti. Come sono banale, ammetto. Ragazzi, quando tutto questo sarà finito, incrociamoci tutti quanti a metà strada, cioè a Roma. Sì. Andiamo al cinema tutti insieme. E andiamo al cinema tutti a San Savino. A prenderci la più bella sbronza della nostra vita. Ma no, io sapevo, allora, che usciva il priore per la riapertura dei cinema, no? Prione. Cazzo, però è vero, potrei montare il priore 2 nel frattempo. Bravo! Ancora non lo stai facendo. Ma sai quanto sono indietro su tutte le cose? Ragazzi, io non tocco una goccia d'alcol da, c'ho 42 anni, da 20 anni, ma vi assicuro che se ci rivediamo dopo questo casino mi ubriaco. Grande cazzo. Fotografica, riprendetemi. Alex, anche Galti facciamo ubriacare, vaffanculo. Anche sì. È ancora più stegno di te, Puccio, secondo me. E facciamo tutti e due lo stesso lavoro, vedete un po'. Lobby, una domanda. Stasera, siccome ho finito di lavorare, stasera avete ragione, mi ubriaco come non faccio tipo da ieri, va bene. Ma Gusella, sono le 19, te ne devi andare a cena? In effetti è un po' tardi, siamo due minuti fuori orario già. Mannaggia. Che polentone di merda. A proposito di cena, qui già mi hanno chiesto ma cosa cuciniamo, e sento gente che si muove per cucinare, visto che ho cucinato io negli ultimi due giorni, c'è della gente che mi sta dando il cambio. Grande. Ringraziamo i sanitari che sono degli tra virgolette eroi, perché ogni giorno vanno hanno delle situazioni particolari al lavoro, essendo un infermiere, se ne vedono di cotte e di crude ogni giorno e sono sempre sul piede di guerra. Scusate, chiusa parentesi seria. Comunque, chi mi volevi chiedere? Scusami, sì, ti volevo chiedere questa cosa. Ora, questa data di luglio sicuramente già farà partire la psicosi di massa, perché qualcuno interpreterà: ci stanno dicendo che fino a luglio non si uscirà di casa sicuramente. Però ipotizziamo questo scenario, come dire, the worst scenario possible, no? Worst case. Vabbè, quello là. Sì, è quello. Worst case. Al di là degli obblighi di legge, da un punto di vista poi pratico e diciamo di ordine pubblico, tu credi che ci riescono a tenere dentro casa tutto questo tempo? La mente umana, a parte quelli che sono abituati e gradiscono questo tipo di situazione, ma gli altri ce la fanno a stare chiusi in casa anche quest'estate? Marona, d'estate sarà particolarmente critico, quindi io credo e spero che comunque in un qualche modo si potranno attuare delle, a parte che non credo si arriverà fino al 31 davvero chiusi, come è stato comunque comunicato, cioè, perché davvero no, solo al bisogno, tra virgolette. Quanto ho capito, si dà anche molta autonomia alle province, in particolare alle regioni, occhiolino a chi sappiamo noi. E in Campania credo che rivedranno la luce del sole a 8 2026. No, perché comunque io leggevo ultimamente hanno fatto, ma ne parlai, non mi ricordo se già nella trasmissione che feci proprio sull'ansia, o comunque ne parlai in una di queste trasmissioni, proprio di un articolo, hanno fatto una review, cioè una raccolta di diversi articoli, un'analisi di diversi articoli di studi psicologici in situazioni di quarantena, e uno dei fattori predittivi negativi, cioè della fuoriuscita in cui ci esci più acciaccato dal punto di vista psicologico, dipende anche molto dalla lunghezza di queste misure. Più lunghe sono, più rischi comunque di diventare ansioso. Il teorema di Mandingo, questo è. Più o meno sì. Questo è, solo che ma vaffanculo. il livello di coglionaggine. Altrimenti non sarebbe GM, voi mi perdonerete. No, sta diventando troppo serio. No, sarebbe, secondo me, a un certo punto la gente incomincerebbe comunque, diventerebbe molto più, cioè, incontrollabile, credo, no? Sì, sì, perciò si trova trovare sempre un compromesso, che è difficile trovarlo, tra l'ordine pubblico e la salute, diciamo. Cioè, perché se davvero, non accadrà mai, però se davvero teoricamente si andasse da qui a luglio tutti chiusi, sarebbe controproducente, perché a un certo punto la gente davvero, secondo me, si creeranno dei disastri dal punto di vista dell'ordine pubblico immensi. Già il rischio più o meno è quello, in realtà non tanto, perché per adesso stiamo tenendo botta, però porco due. Oh, ma poi dai, Trump è stato chiaro, come ci fanno notare anche in chat, lui vuole riaprire tutto entro Pasqua, perché altrimenti l'economia crolla. Bisogna aprire tutto. Poi tutti sti medici che vogliono riaprire, vogliono chiudere tutto, ma chi sono mai questi medici, questi scienziati? C'ho una domanda. Comunque, avete notato come nei paesi anglosassoni, quando c'era da dire no, non chiudiamo niente, cioè abbiamo il cazzo gigante, non siamo come quei froci europei, poi invece quando devono chiudere, ah ragazzi, abbiamo chiuso tutto, non ditelo a nessuno, ma non andate in giro, state zitti, cioè questa cosa qua mi ha dato veramente fastidio, ma che cazzo, cioè, vai, Trump è il coglione più potente del mondo, però vabbè, però dall'Inghilterra, che vabbè sono coglioni pure loro, ma mi aspettavo un gradino in più, invece è proprio la stessa identica cosa. Vabbè, ma Boris Johnson abbiamo capito tutti che essere i coglioni vanno sempre accoppiati, ci sono sempre almeno due. Ma io non conosco come funziona la democrazia e la monarchia inglese, ma in casi del genere la regina non può fare qualcosa e dire ma vattene a fanculo, sì, Walter, sopravvivere. Sta cosa è stata, poi questa domanda la stavano facendo su, vabbè, un social parallelo che seguo, che è Quora. C'è, cioè, un esperto di giurisprudenza inglese che stava dicendo che potenzialmente la regina ha il potere di revocare il Parlamento. L'ultima volta che è capitato hanno decapitato il sovrano. Quindi, diciamo, non penso sia molto interessante. E comunque, ragazzi, una nota a margine: ci sono due cose lato Trump che secondo me meritano di essere raccontate. Che un suo consigliere economico di circa 75 anni oggi ha twittato: da persona anziana sarei contento di sacrificare la mia vita per il bene dell'economia di tutti gli Stati Uniti. La prima risposta che ha avuto è stata fai pure. A parte questo dettaglio, cioè il consigliere di Trump per i fenomeni epidemiologici si chiama Fauci ed è un medico estremamente ben voluto negli Stati Uniti, anche una figura pubblica, è quello che nei video in cui avete visto in cui Trump parla dell'epidemia si mette le mani in faccia. Oggi lo hanno intervistato da solo e ha dato due risposte fulminanti. La prima è stata ma lei non ha facoltà di intervenire sul presidente per evitare che dica, che dia informazioni scorrette a chi lo ascolta, e lui ha risposto: che cosa vi aspettate che faccia, che gli strappi il microfono? No, gli deve dare il Ritalin la mattina, semplicemente. È stata la prima cosa che gli ha detto. E la seconda è stata, poi dopo una lunga serie di conversazioni, ha detto: ma se dovesse dire che l'ipotesi era che le persone sono libere di uscire, ha risposto: gli strapperei il microfono. Il signore ci aspettano tempi interessanti. No, io invece stavo facendo un'analisi geopolitica interiore e stavo pensando che per risolvere un po' di problemi una soluzione ci sarebbe, però bisogna forzare un pochettino la mano. Ovvero, noi sappiamo che in Inghilterra l'erede al trono salta un turno, nel senso che il principe Carlo, abbiamo capito che non becca. Però se noi agissimo così, tanto Carlo sappiamo che è un po', come dire, è un po' sul filo dell'ambiguità, lo facciamo sposare con De Luca. E poi al trono De Luca. Si può fare, penso, cioè si deve smussare. Senti, qualche dettaglio tecnico, ma si può fare. Non sono sicuro che la linea di successione funzioni esattamente così. No, eh? No. Con De Luca funzionerà. Lui piegherebbe le leggi statali di un altro stato pur di assondi lanciafiamme. De Luca ha una figlia. Sì, sì, due figli, sì. Cioè, due figli, sì, tutti e due in politica, ovviamente. Ah, ok. Peccato. Non c'è. Vogliamo la foto allora della figlia? No, figli maschi, nel senso. Vuole anche la foto dei figli maschi. Che problema c'è? Mi pare un investimento. Assolutamente. No, ho capito. C'è la linea che, cioè, io sento una parola su 10 praticamente. Queste linee del nord non vanno proprio bene. Incluse le mie, quello il casino, però. Ma quello è un altro tipo di problema. C'ho dei bravi colleghi, lo sai. Sì, secondo per me, tutti, però. Per tutti. Secondo me, qua serve un otorino, però, nel caso di Cusella, continua a non sentire. Serve un dottorino? Un otorino. Otorino laringoiatra. Un motorino? Vi prego, bravo. Se fate una colletta, facciamo una colletta, lanciamo una colletta su Runtime di 4.000 euro, mi becco la multa, ma vado da Cusella, gli do un papagno in dietro le orecchie e poi ritorno. Shut up and take my money. Ok. Guardate, c'ho una colletta bianca qua. Ma possiamo anche fare uno stretch goal su Patreon e gli offriamo un altro servizio. Oh, sì. Quello anche meno di 4.000 euro. Quello sì. Provate a infilargli un cotton fioc nell'orecchio, tenete premuto e vedete se ritorna alle impostazioni di fabbrica. Che bella cosa. Simone, ti voglio bene. Ok, io no, io non mi voglio bene. L'avevamo capito. Ragazzi, Alina ci fa una domanda interessante. E la giro a voi perché non saprei cosa rispondere. I vostri buoni propositi per questa quarantena? Non ingrassare troppo. Il mio è sopravvivere. Molto semplice. Sopravvivere, basta. Cioè, io non è. Mi basta sopravvivere. Uscirne. No, per tornare a fare la vita di prima, che è uguale a questa. Che è uguale a questa, soltanto con un cioè, più di basta uscirle. Che sì, esatto. Escano. Proprio quello ha detto, no? No, ma seriamente, nessuno di voi ha fatto un fioretto. Cioè, tipo, io ho promesso a me stesso che fino a che non riprendo la vita normale, mi preparo per i due esami di certificazione di Python. Cioè, nessuno si è fatto. No, io ce l'ho uno che per ora c'ho segreto. Forse io, no. Io continuo a essere irrisolto nella vita e sono felice così. Vabbè. Io ho detto non ingrassare. Io già faccio schermo, anche mi serve il fioretto. Sento che più che non l'ha invitato questo, Francesco, dai, dov'è che lo stiamo facendo? Non lo so, penso si è invitato da solo. Dov'è? Ripeti, Puccio. Dov'è che lo stiamo a fare sta raccolta fondi? Ma ci sono tante piattaforme, ma facciamolo uno su ogni piattaforma. C'è GoFundMe, c'è Kickstarter, ce ne sono tanti. Quindi però facciamo. Guarda, sto rivalutando gli stretch goal. Perché ora che ci penso, conosco uno che per due kebab fa omicidi su commissione. Ma con o senza cipolla? Dipende come ti piace morire. No, l'omicidio lo fa con la cipolla. Allora muoio con la cipolla, grazie. Figa, mi state facendo venire voglia di mangiare kebab, bastardi. Comunque, in tutto questo ho trovato una petizione, quella per Barillari. A quanto stanno? Dico subito, 808 persone. Erano Roberto 700 Bugliani quando l'ho vista io. Vabbè, sta andando. Gianluca dice il suo fioretto, che poi non è proprio un fioretto, è terminare The Last of Us. Dai cazzo, perché Gianluca, finiscilo. A proposito di farsi male, il mio invece è terminare Twin Peaks stagione 3. Sto più di metà, dai. Mo che arrivi all'ottava puntata, tipo. No, sono arrivato all'undicesima, non ti preoccupare. Ragazzi, a proposito di cose da vedere, e a proposito di Netflix, che come diciamo spesso devi andare a trovare le cose che vale la pena in mezzo a un catalogo sterminato, ho visto produzione ho visto una produzione spagnola di un regista, tra l'altro credo esordiente, che si chiama Il Buco. Promette benissimo. È un bel film, devo dire, parte subito immediatamente l'associazione a The Cube, per come è pensato nelle sue meccaniche iniziali, però è molto molto più introspettivo e merita di essere visto. Ve lo butto lì, vi lancio un po' di pastura. Il Buccio si chiama? Sì, sì. È Buccio, è Buccio. Il Buccio, il Buccio. No, quella è la salsiccia, Alex. La salsiccia, ma detto Buccio. È un riflesso condizionato proprio. Sarciccia. Sì, Alex, oh, sarciccia. I trigger sì. C'ho un sacco di trigger assurdi. Anche un campanellino. C'è il riflesso pavloviano con la sarciccia. Sì, sì, proprio il classico. Ora ci aggiungo, faccio, questo è quello di primo ordine, poi lo associo a un campanellino e diventa di secondo ordine, poi lo associo a una scoreggia e diventa di terzo. Ok. Avreste dovuto vedere una cosa. Quando questa roba è nata, perché questa roba è nata, non so, voi sapete da dove arriva l'origine della sarciccia? No. Sì, uno spot di CN, vabbè. No, i Profilax. Le Profilax da Beautiful. Quello, allora sì, da okay. Beautiful, quello di Beautiful, e praticamente Beautiful. Che noi vedemmo, non so, trafugato in qualche videocassetta strana, a casa di Fabio Simonetti, quello che poi scriveva per TGM. E abbiamo passato un mese, ma tutta la compagnia, un mese a dire solo sarciccio, sarciccio, ma un mese senza comunicare altro. Abbiamo detto, come stai? Sarciccio, 30-40 cazzi ne so, tutta sta roba qui. Per cui c'è altro che riflesso, cioè per me è proprio un imprinting. Ho passato un mese della mia vita, come passerò un mese rotto della mia vita in quarantena, lì ho passato un mese della mia vita a dire sarciccia. Per cui capisci che questa... Poi tra l'altro quando c'è qualcuno che la pronuncia male, cioè, tipo c'è un tizio esperto di vino, dice salciccia, cioè proprio che ogni volta che lo dice il primo istinto è sprangarlo, perché cioè, non puoi dire salciccia convinto che si dica salciccia, e poi dopo salciccia. A proposito di Profilax e trigger, Marco Gualdi, ci sei? Sì. Fa bene la pelle, fa bene i capelli. Se te lo mangi è meglio. Certo, se te mangiavi era meglio. Il cocco, ma che ne sapete? Beverly Hills l'avete visto? Sì. Cacchio. Ragazzi, devo fare una confessione. Quando le prime volte ascoltavo Marco sui podcast di PN, io ero assolutamente convinto che fosse quello dei Profilax. Non so dove siamo. Non mi ricordo come, una volta disse a Simone, una roba del tipo, ma sai che la voce di Marco? E Simone disse sì, ma difatti lo scambiano. Vabbè, ok. Però ero veramente convinto che fosse uno di loro all'inizio, poi vabbè, ho capito. Però diciamo, per un paio di mesi, Marco, ti ho dato... Hai dato del Profilax. Ti ho dato del Profilax, assolutamente. Vabbè. Una volta c'è di questa lo dobbiamo fare uno speciale su tutto l'excursus dei Profilax, perché poi la loro storia è lunghissima. Sì, hanno vabbè. Cambiato nome, San Culamo, Profilax. Nel frattempo, attenzione, breaking news, è calato il buio. Vero, Carlo. È calato il buio, ragazzi. Cioè, così inaspettatamente c'è il buio. Senti, voi ma i tuoi umarell personali che hanno fatto oggi, Marco? Cioè, in che senso? I passanti? Sì, sì. Ho capito. No, sì, quelli che tu commenti, quelli che tu blasti dal balcone tutti i giorni. Non ci sono. È passato qualcuno con la mascherina, perché l'aria infetta, lo sappiamo benissimo che l'aria infetta. È passato qualcuno con la mascherina, ma fortunatamente poca roba, insomma. Quindi tutto sommato siamo contenti, cioè, meno blastiamo, più guariamo. Questo è il nuovo motto. Mazza, guarda, una ventata di ottimismo di Gualdi, se ci pensate. Esatto. Infatti non c'è più religione. Nel frattempo è esploso un tubo sotto casa mia e perde acqua. Ma tanto sapete che Monterotondo è il paese delle fontane, ma non ci sono fontane. C'è anche delle cascate, però insomma è difficile da spiegare così. L'acqua zampilla dal suolo, perché siamo pieni di acqua, proprio di falde acquifere. Avete i pozzi artesiani in salotto? Abbiamo cioè... di tutto, abbiamo. Vabbè, ragazzi, è una popolazione estremamente pittoresca, io ve lo dico spesso. Beh, sì, sì, sì. È il momento di confessare, perché siamo arrivati quasi alle 19, sono 19:20, insomma, siamo quasi arrivati alla nostra canonica oretta e mezza. Vi volevo chiedere, adesso andrete a cucinare o comunque a sfruttare chi ha cucinato per voi? Cosa mangiate di buono oggi? Io cucino, faccio delle bistecche di roast beef con oggi, facendo ordine in cucina, abbiamo trovato una polvere che abbiamo comprato in un negozio americano, una roba per carne alla griglia. Ci metterò sopra questa salsina qui, e se Dio vuole mi faccio anche delle patate al forno, perché cioè di mangiare insalata mi sono rotto il cazzo 200.000 volte, proprio l'insalata mi ha rotto la minchia. per cui faccio un po' di sta roba qui. Ieri sera ho fatto delle polpette stratosferiche, mi sono piaciuto, però mi sono dato le pacche sulle spalle utilizzando tra l'altro il pecorino romano di Simone Pizzi o di Michele De Padova, cioè. Sì, sì, infatti sono molto mi sono dato la pacca sulla spalla da solo. Abbiamo aperto anche del vino, però Michele Pialla. Sapeva di tappo, il che ci è messo un po' a piangere. No. Però per cui è stata l'unica nota stonata della serata. Brutto, e quando magari sei solo quella bottiglia, perché ovviamente la spesa è quella che è, e ti sa di tappo, e come rimedi? Brutto. No, allora posto che mia moglie ha una cantina bella fornita, solo che alcuni vini sono da non dico pregiati, però da mangiare o con cose in particolare. In occasione, insomma. Esatto, in occasioni, per cui diciamo che quella era quella abbastanza ideale. Adesso devo dire che se riesco a tornare a fare la spesa io, magari comprerò una vagonata di vino a cazzo, cioè così, che può essere usato un po' più per berci allegramente. Allegramente. E però ieri sera mi sono visto Joker e mi è piaciuta tantissimo. Non l'ho ancora visto. Devo vederlo. Sì. E invece, Carmine. Vabbè, io essendo marito di mia moglie, la cuoca del gruppo. Io ora le ho visto sfornare una crostata di mele con contorno arricchita. Perché, con il gelato, spieghiamolo, in Puglia ancora dovete fare la merenda. Sì. E in più stava facendo anche i biscotti, tra cui i ferri di cavallo grassati al cioccolato, che ho già provato mentre facevamo la diretta, perché mia figlia me ne ha portati due, però ancora privi di cioccolato, che è una cosa gravissima. Però non so esattamente che cosa ceniamo ancora, lo scoprirò tra un po'. Ieri mi ha fatto gli straccetti di pollo, sì, e le patate duchessa, che le ha fatte buonissime. Ma le fa lei o usa il Bimby? Confessa. No, le fa lei, non ce l'abbiamo il Bimby. Ci abbiamo un altro a fare robot da cucina, ma non è il Bimby. Il Bimby ce l'ha mia madre, ma anche lei ha smesso di usarlo perché hanno scoperto dei dispositivi diversi. Tra l'altro mia madre ha comprato un abbattitore di temperatura e ora sto riflettendo se regalarlo a mia moglie o meno, perché è utilissimo. L'abbattitore, sì, che scherzi. Non sapevo che ce ne fossero dei modelli da casa, però. Non è un modello da casa. Ah, ecco. Costa 800 euro ed è grande come una casa. Dire. No, ci paghi l'IMU praticamente. Sì, no, è un forno a microonde per 4, cioè non so come altro farti capire la dimensione. Vabbè, quindi è proprio per uso professionale. Eh sì, però lei l'ha trovato in offerta, se l'è preso. Poi abbiamo trovato un rivenditore a Bari che ce ne ha di abbordabili, tra l'altro anche di marca, e a volte li vende anche usati di ristoranti che hanno chiuso, che ne hanno comprato altri più grandi. Quindi se ne trovo uno prima o poi lo regalo anche a mia moglie. Interessante. E Lobby, tu hai indagato su cosa stanno cucinando i tuoi coinquilini? Sì, ci sono degli odori molto odorosi. Se volete, così proprio live, vado a chiedere adesso un attimo e ritorno fra tre intanto secondi. Intanto chiediamo alla mamma di Gualdi cosa cucina lei. No, non lo so cosa cucina, è una sorpresa, Comunque era il maggio odoroso. Cioè? Niente, uno dice la parola odoroso, io automaticamente dico era il maggio odoroso. È sempre un trigger. Sì, va bene, lascia stare. Gusella, tu che mangi? Che dopo ti ubriachi pure, l'abbiamo assodato, ma che mangi? Hai già mangiato. Hai già mangiato? Può essere vero. Sì, comunque sì. Molto stello. No, non è vero e non ho idea di cosa mangio, perché non scendo dall'ora di pranzo, quindi... Ci sono. Allora, magari cosa hai scoperto? Più il resto della casa è esploso, quindi ho scoperto che stanno facendo polpette vegetariane che sono buonissime. Sono buonissime, sono roba clamorosa. E patate, ma con le melanzane? No. Sì, patate al forno, e le ho consigliato io, chissà chi mi ha consigliato a me di mettere sempre un pizzichino di cannella ed eseguono. Grande. Chi te l'ha consigliato, scusa? Qualcuno No, è in chat adesso. Vabbè, ma io c'ho mio figlio vicino al microfono, se sentite dei versi è lui. Vabbè ragazzi, io invece non ve lo dico per non avvilirvi. Che Gualdi fa bestemmie a gogo, per cui va bene, cioè cosa può fare tuo figlio in più? Assolutamente. Massimo fa un ruttone. Vabbè, ma quelli li facciamo bitonali. Anche noi di solito, insomma. Sì, ma cioè lui c'ha 3 mesi e fa dei rutti bitonali che fanno impressione. Beh. Cioè. È una carriera promettente, lo scriveremo a Rutto Sound nelle juniores appena possibile. Sì, sì, no, appena arriva un'età in cui almeno si mantiene in piedi. Potrebbe fare Root Mysterio Junior, però. Esatto. Vabbè ragazzi, dicevo, io non vi dico cosa ceno perché o sto qui o mi invento qualcosa, quindi probabilmente finirà a spinacina, però domani mi recupero. No, la spinacina no, di sti tempi, sei matto. Guarda che in Cina sono guariti. Ma è di ritorno. Quello che dicono loro. Ah sì, sì, vabbè. Di dietrologie ne possiamo fare quante ce ne pare, lo dicevamo oggi. Vi pare che i numeri cinesi sono quelli reali? Chi lo sa? Lasciamoci con questo dubbio. Sì, ma manco 21 milioni come no, stanno scrivendo sui video. No, Trump, no, ragazzi, cioè, quando è venuta fuori quella notizia, che poi a Walter gli ho detto, mi sono andato a vedere l'account Twitter da cui è partito. Cioè, a parte che c'è gente. No, cioè, dovete andarvelo a vedere, ci sono scritte delle cose meravigliose su quell'account Twitter. Cioè, tipo, non so se sapete, il programma di aiuti alle imprese che è stato bocciato al Senato degli Stati Uniti prevedeva che il fondo da 500 miliardi di dollari fosse supervisionato da un uomo solo che poteva dare i soldi a sua discrezione e per 6 mesi sarebbe stato mantenuto il segreto sui destinatari dei fondi. Secondo voi una legge, cioè, neanche la Lega sarebbe capace di tanto. No, ma il bello è che poi invece su quell'account Twitter, quello dei 21 milioni di morti in Cina perché hanno staccato 21 milioni di telefoni, c'era scritto che senza spiegazioni, no, il programma di aiuti bocciato dai democratici. Ma vaffanculo. Ragazzi, ma invece quell'altra teoria ipercomplottista secondo cui sovrapponendo la mappa dei ripetitori 5G accesi in Italia e quella dei contagi per Covid sono perfettamente sovrapponibili, l'avete vista? Sì, sì, sì, sì. Un sanatore mostruoso, però è divertente da vedere. Cioè, noi il 5G a Bari in centro ce l'abbiamo, la Puglia è una delle regioni con la minore incidenza di contagio. Sì, vabbè, ma insomma, che facciamo? Rispondiamo momento. Seriamente. Questo no, è dai. Quello che credi tu. È bravo, hai ragione. Questo lo dice lei. Esatto. È perché tu c'hai il ripetitore 5G della Wind, quindi ci vuole più tempo. No, della Wind 3, attenzione. C'hai ragione, ma un anno e mezzo dei massimi sistemi per trovare il nuovo brand unico. Vabbè, questo di cui ne parliamo in un altro tipo di programma, cioè sarebbe tanto. No, andiamocene allegramente con parlando del filmato, purtroppo non lo potete vedere, ma il filmato bellissimo del parroco che ha deciso di fare la messa in diretta. Sì, quello è meraviglioso. Ed ha messo gli effetti. Ma guarda, è successo uguale a un politico dell'Est Europa poco tempo fa, Un politico. Assolutamente. Sì, sì, col gattino, no, era pure iraniano, non mi ricordo il come. No, forse in Turchia. Però credo che una messa così probabilmente andrebbe vista. No. C'erano solo 30 secondi, ma me la sarei goduta tutta, però. Peccato. Vabbè ragazzi, io direi che la nostra oretta e mezza ce la siamo portata in casa. Voi che dite? Sì, anche basta. Ormai la cena è già fredda. E allora anche basta. Io saluto tutti quelli che oggi ci hanno fatto compagnia, a cominciare da Lobby Frontali. Buonasera. Io vado a mangiare allegramente, quindi vi saluto. Il distruggitore aka Deathbringer aka Marco Gualdi. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ne usciremo. L'onnipresente. Uscire. Il multitasking. Il trigger man Alex Raccuglia. Ciao ragazzi, ciao, vi faccio subito un anteprimo, uno spollo, che venerdì alle 11 di mattina ci sarà una puntata in diretta di Il vino lo porto io con Marco Barbetti, in cui parleremo dei vini essenziali da avere a casa, così. Poi invece domani mi sa che faccio una puntata live di Tecnopills, così se mi capita, altrimenti no, devo fare una live ogni giorno, altrimenti sta quarantena non avrà senso. Ciao. Sarciccia. Sarciccia. Ah, sarciccia de bollo. Salutiamo Carmine Puccio Console. Che bello, ne usciremo rotolando, ma ne usciremo. Vi volevo dire, rimanete questa settimana in contatto con noi perché ci aspetta anche un video ludica in cui parleremo di PS5 sulla nuova Xbox. Vengo anch'io. Parleremo Madonna. Di architetture, ma parleremo anche di servizi collegati alle console. Dai, lo scopriremo. Brava, brava, brava. E c'era con noi anche Simone Cusella. Ciao, ciao, vado a mangiare, finalmente sono libero. Buona cena a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che abbiamo un po' tralasciato, buon devo essere sincero, cena. Questa sera Gianluca Sansò, Lucio Plantone, Alina, scorro, all'inizio c'era anche Davide Gatti, non so poi se ci ha ascoltato mentre lavorava, se è tornato a casa. Salutiamo Rosenkatz che era presente e non abbiamo ancora salutato, salutiamo Girasole e tutti quelli che pavidamente non hanno ammesso di averci fatto compagnia. Appuntamento alle prossime dirette. Si chiama Girasole. È vecchio, abbiamo già usato. No, vi prego, basta. Ma basta, non ti puoi prendere un cagone di Cusella. Non andare a inquinare i tuoi genitori, giù. Stampati il cibo con la stampante 3D e rimani su. Pronto, Igor? Senti, i kebab sono pronti. Beh, ciao, Igor, quello delle gorgonzola. È lui? Sì, Igor, proprio Gonzola, lui. Sì. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. See you there.